Se il presidente Ciampi non fosse per formazione e cultura essenzialmente un banchiere, se non appartenesse cioè a un gruppo professionale uso a trattare con grande liberalità le categorie del reale e quella dell'immaginario, forse non si sarebbe azzardato a proporre ai nostri pazienti concittadini l'istituzione di una giornata della bandiera, esortandoli per di più a celebrarla in modo adeguato con una locuzione ufficiale. Ci vuole molta immaginazione, in effetti, per ritenere che il tricolore sia stato o possa diventare un vero simbolo di unità e concordia nazionale, e hanno fatto bene quei commentatori, citeremo per esempio Gabriele Polo sul Manifesto di mercoledì 8 gennaio, che hanno sottolineato come gli italiani nella loro storia unitaria quel vessillo lo abbiano sventolato soprattutto per sottolineare le proprie divisioni. E che la tendenza a servirsene per esprimere, come si dice dal basso, una volontà di rinnovamento o rivolta, come è successo in certi episodi del Risorgimento o della Resistenza, abbia avuto storicamente molto meno fortuna di quella di chi lo ha impiegato dall'alto per coprire una volontà di sopraffazione e dominio. Tanto è vero che, a differenza che in altri paesi, quelle che una volta si definivano le larghe masse popolari da quel simbolo si sono tenute piuttosto alla larga, e che l'unica occasione di un suo impiego generalizzato e spontaneo ha finito per essere quella piuttosto caricaturale dei festeggiamenti successivi alle rare vittorie della nazionale di calcio. D'altronde, se è vero che i simboli non richiedono per essere tali altro che la volontà di qualcuno di investirvi di quella funzione, è altrettanto vero che difficilmente si riesce a prescindere del tutto dalle circostanze storiche che hanno caratterizzato la loro scelta, il che dovrebbe obbligarci come minimo a dubitare della funzionalità di un emblema di indipendenza nato notoriamente per imitazione di quello di una potenza straniera occupante. Perché il tricolore della Repubblica Cispadana non ci scappa, fu adottato il 7 gennaio 1797 in ovvio ossequio a quello delle armate napoleoniche, e di diffidare parimente di una bandiera repubblicana che è stata imposta al paese con proclama regio. In effetti, da quando Carlo Alberto, appunto, il 23 marzo del 1848 lo fece distribuire alle proprie truppe in barba alle sue origini giacobine, sono stati veramente tanti i propugnatori del tricolore che hanno avuto in mente soprattutto l'interesse proprio. E non sarà un caso se, a differenza del suo prototipo francese, che ha conservato a lungo, anche durante le parentesi napoleoniche e orleanista, una specifica connotazione democratica e repubblicana, tanto è vero che proprio sulla questione della bandiera è caduto almeno un tentativo di restaurazione monarchica, sia a differenza di quello francese, quello italiano non ha mai posto preclusioni ideologiche a nessuno. E nessuno, in effetti, monarchico, repubblicano, clericale, democratico, reazionario, fascista o altro, ha mai avuto particolari obiezioni da muovere al suo impiego. Episodi come quello del conte di Chambord, appunto, il mancato Enrico V, della sagra del Carducci, che nel 1871 rifiutò appunto l'offerta del trono e pur di non rinunciare al vessillo bianco dei Borboni, non hanno mai caratterizzato la nostra storia. Se questo sia un sintomo di civile tolleranza o di quella indifferenza ai valori che in politica prende di solito il nome di trasformismo, è un problema che ciascuno potrà agevolmente risolvere da sé. O anche quello della comune indifferenza ai valori naturalmente può essere un criterio di unità. Gian Machiavelli, se ricordo bene, scriveva dispiacendosene che a caratterizzare gli italiani in quanto tale va soprattutto la spiccata tendenza a privilegiare ciascuno proprio particolare. Una gran brutta propensione nei termini in cui la dipingeva quell'autore, ma anche un atteggiamento in ultima analisi maledettamente ragionevole. Unità e solidarietà, a pensarci bene, sono due belle parole, ma vengono usate troppo spesso per coprire delle pretese e degli atteggiamenti volti soprattutto ai danni di qualcun altro, perché ci si possa affidare loro con piena serenità. Per restare in argomento, le bandiere che sventolano nelle contese civili sono sempre più rispettabili, nonostante tutto, di quelle che guidano gli eserciti alla conquista dei paesi altrui. Più in generale, Più in generale sarà sempre meglio un'onesta divisione in nome dei valori e dei legittimi interessi delle parti che un'unità fittizia imposta da qualcuno allo scopo precipuo di difendere il proprio utile personale senza prendersi la briga di dichiararlo, che poi stringi la funzione assegnata all'unità nazionale dalle varie classi dirigenti da quando esistono le nazioni. Non so voi, ma io personalmente a dimostrarmi unito e solidale, tanto per fare dei nomi, con Berlusconi o i suoi, per non dire dei fratelli Agnelli, del sindaco Albertini, del ragionier Colaninno, del dottor Trinchetti Provera e di altri degni personaggi par loro, non sento la minima necessità. E sul fatto che costoro agiscano davvero nell'interesse del paese tutto, continuo a nutrire una certa qual diffidenza. E il presidente Ciampi fa il suo mestiere, poveretto, e tutti vi auguriamo la più lunga permanenza possibile al Quirinale, anche in considerazione di chi si è candidato a succedergli, ma certi inviti in sostanza avrebbe potuto risparmiarceli. I've seen the demons but they didn't make a sound, they tried to reach me but I lay upon the ground. I seen the people, but they didn't make a sound. They tried to reach me.